Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. Buon pomeriggio, benvenuti, Luca Tremolada al microfono. Oggi ci doveva essere anche Cristina Tagliabue, quindi insomma puntata dedicata alla Pink Innovation, all'innovazione in rosa. In realtà Cristina Tagliabue ha 38 di febbre, per cui noi la salutiamo, e sono qui in compagnia con la famiglia Nonnino, della Grappa Nonnino, esattamente con Cristina Nonnino. Buongiorno. Buongiorno. E la mamma che è appena arrivata proprio sul photo finish perché è stata dirottata. Come sta? Buongiorno. Benissimo, grazie. Benissimo, perfetto, perfetto. Allora, entriamo. Perché abbiamo qui la famiglia Nonnino? Abbiamo qui la famiglia Nonnino perché ho un appunto lasciato da Cristina Tagliabue di un professore, anzi del preside della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Milano, che sostiene la seguente cosa: una regione che è il Friuli è una regione che fa scappare gli uomini. Che abbiamo scelto allora? Abbiamo deciso di andare a vedere dentro bene, con chiarezza, nella famiglia Nonnino, perché lì insomma mi sembra di capire, Cristina, che è un matriarcato. Sicuramente è un matriarcato. Tra l'altro in diretta devo ammettere che ho dato l'indirizzo sbagliato alla mia mamma per poter avere il mio momento di gloria, ma non mi è andata dritta, riesce sempre a essere più veloce della luce. Allora, è stato un incidente, signora. La signora è arrabbiatissima. Tutto premeditato. È arrabbiatissima. Allora, per rasserenare gli animi, mandiamo subito una scheda, prima su Cristina e poi sulla mamma. Nata a Udine nel 1963, sposata con il suo primo amore Antonio Maria Bardelli, da cui ha avuto Chiara, Antonio Davide e Francesca. Fin da bambina ha sempre pensato che avrebbe seguito le orme materne. Lei stessa dice: fin da ragazzina sono stata coinvolta in mansioni che mi hanno inserito nell'azienda senza quasi che me ne rendessi conto. Ecco perché il mio ingresso in Nonnino non è stata una scelta consapevole, ma inevitabile. Il motto delle sorelle Nonnino è o tutte o nessuna. È così che si è creata la famiglia Nonnino, unita nell'affrontare le difficoltà e la gioia che la vita ci riserva. Cristina è responsabile commerciale del mercato Italia, il cui fatturato rappresenta circa il 60% del fatturato totale. Cura le pubbliche relazioni e le degustazioni, ma il ruolo di cui è più orgogliosa è quello di responsabile di produzione della distilleria. Allora, eccoci. Questa era la figlia, essere Cristina. Ok, quanti siete in famiglia? 5, 3 sorelle col papà e la mamma, super efficienti ancora. Purtroppo, eccoli qua. Ecco, ma insomma il Friuli è una regione che fa scappare gli uomini, ma no. Guarda, io credo che dipende che uomini. Se parliamo di uomini che hanno dei complessi e dei problemi, forse avere a che fare con le donne friulane, donne abituate ad avere un grande carattere, perché non dimentichiamo che il Friuli è stata una terra che ha sofferto di grande miseria. Quindi parlo nell'Ottocento, ma fino ai primi del Novecento gli uomini erano costretti a lasciare il Friuli per trovare lavoro in giro per il mondo, quindi dall'America Latina. Non dimentichiamo, Buenos Aires è la città con maggior friulani al mondo. Ecco, e quindi le donne hanno dovuto da subito imparare ad arrangiarsi, quindi a crescere i figli, perché quando i mariti rientravano regolarmente le lasciavano incinta e ripartivano. Ah, ecco. Quindi crescere i figli e portare avanti la gestione non solo della casa ma della terra e di tutto. Quindi c'è il famoso detto per cui una donna in Friuli è in grado di sorreggere i tre lati di un tavolo. Questo per capire quanto sanno essere toste. Ovviamente se ci confrontiamo con uomini che hanno magari difficoltà a dare spazio a considerare la donna non stile, vecchio stile, cioè che la piasa che la tasa che la staga a casa, come dicevano, ecco, nel Veneto, ecco, tanto okay, per essere chiari, ma una donna, un essere pensante che come ci hanno cresciute mio padre e mia madre, con delle potenzialità che possono essere espresse non solo nella famiglia ma anche nel lavoro, beh, gli uomini in Friuli possono trovare una compagna con cui fare grandi cose. È un bello spot comunque, è un bello spot alla regione. Ecco, ma in questo momento di difficoltà, e mi rivolgo a Giannola Nonnino, alla mamma, cioè difficoltà per il mercato, insomma, avere una il fattore, a me viene da dire il fattore rosa, ma è orrendo il fattore rosa, io non ho mai odiato queste cose. Noi siamo tutti individui pensanti. Ottimo, quindi, ottimo. Per cui non le chiedo cosa pensa delle quote rosa, non le chiedo cosa pensa delle quote rosa in politica. Io lo trovo umiliante, veramente. Però mi rendo conto che se ci sono è perché sono indispensabili. E quello però che mi meraviglia di più è che non sono indispensabili per il Friuli, per l'Italia, ma per tutta l'Europa. Perché addirittura, non ricordo se in Norvegia, in Svezia, adesso non mi ricordo esattamente in quale stato del nord, quindi progressista, progredito, via avanti, impongono un certo numero di donne nei consigli di amministrazione. Quindi cosa significa? Che altrimenti non ci sarebbero donne nei consigli di amministrazione. Sì. Ho notato, perché è una cosa che io non sono mai stata femminista, però ho avuto un'educazione giustissima da parte dei miei genitori, che erano persone molto aperte, persone colte, che hanno educato me e mia sorella come due individui pensanti che avrebbero potuto realizzare qualsiasi cosa pur nel rispetto di chi stava vicino e mirando lontano per arrivare almeno vicino. Per cui per me essere femmina anziché maschio, devo dire che per me è stato un vantaggio. C'è qualcosa che dà fastidio però, insomma, di quello che succede, perché poi voi avete chiaramente il punto di vista di un'azienda. A proposito, come sta andando con la crisi? Bene, noi teniamo, sa perché? Perché abbiamo sempre reinvestito nella nostra azienda. Noi non abbiamo portato una lira fuori dall'Italia, abbiamo reinvestito sempre nella nostra azienda, ci crediamo, abbiamo creato innovazione e continuiamo a creare. Per innovazione intendo addirittura creare nuove acqueviti che ci vengono copiate, ecco, da tutto il mondo. La fermo un secondo perché ricordo il numero verde 824 0024. Adesso andremo a capire un po' che cosa si intende per innovazione applicata alla grappa, quindi a qualcosa di antico per eccellenza. Mentre sugli SMS il numero è 349-238-6666. Allora, che cosa si intende per innovazione? Lo chiedo alla mamma o alla figlia? Alla figlia. Ma è un privilegio poterlo dire. Comunque, perdonata. Sì. Ma c'è un grande vantaggio in casa nostra, che si fanno anche dei baruffoni pazzeschi, perché è ovvio, tante teste, tante idee e quindi discussioni anche belle e vivaci, ma non viene mai messo in discussione l'amore che ci lega. Questa credo sia la vera nostra forza. Siamo una famiglia veramente unita. E quindi uniti nel bene e uniti nelle difficoltà. Il fatto che lei ha dato l'indirizzo sbagliato alla madre per arrivare qui in trasmissione è accessorio, no? Sì, no, insomma, succede, questo mi serve di lezione, non dare mai niente per scontato. Ok, no, allora però intendiamo, cosa intendiamo per innovazione quindi? Beh, la cosa straordinaria che hanno realizzato Benito, Giannola, Nonnino, i miei genitori, è stato proprio quello di far rinascere la grappa da Cenerentola, regina dei distillati, ma con un atto che è nato da grande impegno, studio, fatica, ma soprattutto da grande amore per il loro per questo prodotto che loro amavano così profondamente. Era il 1973, la grappa era molto diffusa come distillato richiesto e consumato nell'Italia, ma era snobbato dalla grande ristorazione, dalle enoteche importanti, perché è considerato un prodotto di basso profilo, low profile proprio. E i miei genitori erano invece arrabbiati, in quanto si rendevano conto che questo era un distillato straordinario, che poteva competere con i più grandi distillati del mondo. E l'idea geniale è stata quella di distillare in purezza le vinacce di una sola uva, scegliendo l'uva Piccolite, che è l'uva più prestigiosa e più rara, e creando il monovitigno, Nonnino. Questa è stata un'innovazione, però, e ci tengo a sottolinearlo, non soltanto concettuale, ma anche un'innovazione nel modo modo di presentare la grappa, che fino a quel momento veniva proposta in bottiglie molto dozzinali, molto sempliciotte, e invece Nonino l'ha proposta in una bottiglia in vetro soffiato, con un'etichetta su cui veniva dichiarata la vendemmia, i litri prodotti, proprio per sottolineare l'eccezionalità di questo distillato. Non è solo una questione di estetica, no, di look, di noi di solito scriviamo i nostri articoli, ma operazione di maquillage, per intendere. Assolutamente. La veste elegante doveva servire a stimolare nel potenziale cliente la curiosità di chiedersi che cosa questa grappa avesse di diverso rispetto alle altre. E poi la cosa in assoluto che per noi Nonino è la più importante, la grande innovazione è stata quella del metodo di produzione, perché per produrre una grappa di eccellenza qualitativa sono fondamentali i principi che mio padre ci ha insegnato: selezione delle materie prime, fermentazione in purezza, distillazione artigianale con alambicco discontinuo. Attenzione. E il tutto partendo ovviamente da delle materie prime straordinarie. Come uno chef in cucina, per creare dei piatti meravigliosi deve avere ingredienti eccezionali, lo stesso avviene per il distillatore. Ecco, una cosa che volevo capire è un po' il dietro alle quinte, nel senso che di fatto noi incontriamo come Nova 24 molte aziende, molte startup, per lo più sono tecnologiche, però insomma è quello che è un dato comune, insomma è un momento di riunione, di sintesi, proprio per affrontare la difficoltà del momento, e alcuni hanno deciso di investire, quindi di puntare sull'innovazione, di inventarsi qualcosa, però insomma è sempre stata una scelta abbastanza complessa, perché nel vostro caso la tradizione è un valore, per cui il cercare di investire, di provare insomma a distinguersi in un certo qual modo, come è stata vissuta questa scelta in azienda? Cioè è stato tutto lineare o ci sono state discussioni e anche costato sacrificio? Beh, innovazione nella tradizione. La tradizione vuole la vinaccia distillata assolutamente con apparecchio discontinuo, ma indubbiamente dopo un certo periodo di conservazione. Non c'era quella cura, quel rispetto per la materia prima. L'innovazione completa, e lì la dobbiamo esclusivamente a mio marito, è stata quella che lui non ammetteva che la vinaccia, per essere distillata dopo la fermentazione, dovesse attendere 15 giorni, un mese, due mesi, sei mesi, come fanno molte distillerie italiane e anche del nord Italia, perché per evitare di investire molto denaro in alambicchi, perché se lei vuol distillare artigianalmente, ovviamente se con un alambicco riesce a distillare 4 quintali in un'ora e mezza, lei con due alambicchi distillerà 8 quintali in un'ora e mezza, con 10 certo alambicchi e via avanti. Noi ne abbiamo 66 di alambicchi, quindi un investimento non indifferente. Oltretutto noi abbiamo la possibilità di controllare, e questo l'ha voluto a mio marito, di controllare nel momento stesso che dobbiamo distillare la materia prima. Innanzitutto lei, distillandola artigianalmente, sa cosa distilla, perché vede coi propri occhi quando carica le calderine com'è, se è vinaccia bianca, se è vinaccia rossa, se è molto morbida, le qualità, diciamo, e sa come la deve, cosa deve estrarre, il tempo che ci vuole per estrarre il meglio del meglio. E indubbiamente, e poi mio marito, ecco, si è sempre rifiutato di adottare la colonna di demetilizzazione, che impoverisce e toglie i profumi e sapori alla grappa. Può spiegare che cos'è? Sì. Certo, la colonna di demetilizzazione viene utilizzata da quasi bello tutte. Bello però, perché siete coordinatissime, è proprio è una nostra vita. ma infatti. Vita però, vissuta proprio. È la colonna che viene che affianca la colonna di distillazione, che viene utilizzata da gran parte delle distillerie italiane. Perché? Perché ma non da noi ovviamente. Buoni, non parliamo tutti assieme. Esiste. Perché noi, distillando, come appunto affermava prima mia madre, le vinacce molto fresche, riusciamo a evitare i presupposti della formazione dell'alcol metilico. Ok, ecco. Quindi col vantaggio di avere una grappa che, non essendo fortemente filtrata, riesce a mantenere i profumi e i sapori dell'uva di provenienza. Ecco, c'è il timore, insomma, che da altri paesi lontani, con metodi anche magari più sbrigativi, insomma, si possa immettere nel mercato un tipo di grappa con una qualità inferiore, ma con un ragionamento sul prezzo. Allora, attenzione che la parola grappa, la definizione grappa è esclusiva dell'Italia e la si può utilizzare solo se si ottiene questo distillato di vinaccia da vinacce di uve coltivate, svinate e distillate in Italia. Ecco, ma viene così, nel senso, Beh, ci sono altri stati, dalla Francia al Sudafrica, in California, tema, che producono distillato di vinaccia, però voglio dire, la grande tradizione, insomma, è come parlare di cognac o di brandy. Il cognac rimane in assoluto le roi, il resto sono i fratelli poveri, la grappa è Italia, dopodiché gli altri possono in qualche modo seguirne l'esempio, ma difficilmente potranno avere lo stesso prestigio. Noi abbiamo molte domande dagli ascoltatori, ne prendo solo una perché non lo so neanche io. Stefano di Udine chiede se anche l'amaro che voi producete lo producete in Friuli. Tutto. Certo. No, può dire ad alta voce. E Stefano sa perché è così buono il nostro amaro? Perché assieme agli infusi e all'alcol contiene una parte di preziosa acquavite d'uva, UE, di cui festeggiamo i 25 anni proprio oggi in via Monte Napoleone, facevamo un feston de quei, di acquavite d'uva invecchiata. Quindi noi aggiungiamo quel tocco di nobiltà, di eleganza, che dà il nostro amaro. E Stefano, la ringrazio per questa domanda, l'aspettiamo in distilleria per bere assieme. Non urli, ha sentito Stefano da Udine e sarà felicissimo Stefano. Allora, adesso ci fermiamo un attimino a ragionare sulla grappa, ma restiamo sul territorio per raccontare un'altra storia. Noi abbiamo in collegamento Francesca Vannini Parenti, buongiorno. Buongiorno. Allora, la sua è una storia completamente diversa, è la storia di Addio Pizzo, sono storie di donne quelle che noi alterniamo durante la trasmissione. Abbiamo una scheda su quella che è la sua storia personale e poi torniamo con lei. Francesca, detta Franca, 29enne volontaria di Addio Pizzo. Alla nascita, al biberon preferiva tenere in mano un pallone da basket. Per anni questa passione l'ha travolta, fino a diventare l'allenatrice di piccole donne in calzoncini davanti a un canestro. La sua adolescenza andava sulle note di Bob Marley. Da dire a tanto, fin da piccola le parole non le sono mai mancate. Parla, parla e ancora parla. Figuriamoci che questa passione le ha portato una laurea in scienze della comunicazione. Mai dote fu meglio espressa. Adesso sogna una Palermo libera, accanto ai ragazzi di Addio Pizzo, porta avanti questa avventura. Allora, Francesca, abbiamo un minuto, ma poi torniamo subito con te. Ci racconti rapidamente come è nato Addio Pizzo? Addio Pizzo nasce a Palermo 5 anni fa, quando un gruppo di ragazzi decide che al fenomeno del pizzo non ci sta più, e pur non essendo commercianti, appunto, o imprenditori, decidono di scuotere la cittadinanza palermitana con dei piccoli adesivi, con su scritto un intero popolo che paga il pizzo è un popolo senza dignità. Ecco, da lì è nata questa iniziativa, che diventa un modo per promuovere il turismo consapevole da un certo punto di vista. Assolutamente, il turismo consapevole ormai è un'ultima appendice di Addio Pizzo, che si concentra sul consumo critico, cioè noi diciamo ai consumatori: sostenete le imprese coraggiose, quelle che denunciano la mafia, e fatelo anche da turisti. Venendo in Sicilia potete dormire, mangiare, essere portati in giro da imprese etiche a tutto tondo, perché appunto non pagano la mafia, e così siete sicuri anche che i vostri soldi, neanche indirettamente, possono finire alle casse della criminalità organizzata. Ecco, come sta andando l'iniziativa? No, sta andando molto bene. Dal lancio dell'iniziativa che è avvenuto la settimana scorsa abbiamo ricevuto tantissime richieste, tantissima attenzione anche dai media, e in questo momento siamo presenti anche alla fiera di Genova della la borsa del turismo scolastico, quindi sta andando veramente bene. Dopo 4 anni dalla partenza di questa iniziativa, come vanno le cose? Allora, dal punto di vista del Comitato Addio Pizzo sono tanti, diciamo, gli aspetti positivi di questa battaglia, perché da un anno e mezzo a questa parte i commercianti di Palermo hanno cominciato a reagire positivamente alle sollecitazioni che venivano da diverse parti, noi compresi, e difatti tra l'anno scorso e quest'anno hanno denunciato i propri estortori alle forze dell'ordine più di 40 imprenditori, cosa che a Palermo non accadeva da 17 anni, che significa che comunque qualcosa sta cambiando. Grazie, tra l'altro avete anche la solidarietà della famiglia Nonnino, l'appoggio. Complimenti Francesca, perché lavorare in Friuli è una cosa, lavorare da voi meritate nel 1000%. Bravi. Grazie Francesca. Noi torniamo alla famiglia Nonnino, anche perché abbiamo molti sms. Tra l'altro un Alfredo da Genova chiede: come mai non avete mai provato a fare l'acquavite di Corbezzolo? Mi viene da dire Corbezzoli. Wow. Caro Alfredo, devi sapere che a parte il fatto che abbiamo fatto varie sperimentazioni con molte bacche, ma soprattutto in Alsazia e Foresta Nera, tutte le bacche più incredibili hanno già avuto la loro espressione in sede di distillazione, e noi siamo ben abituati, a noi non piace copiare, a noi piace innovare, e proprio per questo, sotto la guida di mio padre Benito, insieme ad Antonella e Elisabetta, abbiamo realizzato il distillato di miele di Corbezzolo. Credo che quindi il nostro gioiello Nonnino, che è puro distillato di miele, no. Va bene. Credo sia l'unico distillato di miele che esiste al mondo, è una cosa fantastica veramente, e pensate che al Vinexpo di Bordeaux nel 2003 c'è una giuria che in occasione di tutti i Vinexpo analizza quelli che sono i prodotti, prodotti più significativi e innovativi proposti nell'anno alla fiera, e nel 2003 l'Italia è stata rappresentata dal gioiello delle sorelle Nonnino. State quasi diventando antipatici. Fabio dalla provincia di Varese, buongiorno. Buongiorno, sono Fabio. Un saluto soprattutto a Giannola Nonnino, che ho avuto il piacere di conoscere nel 1987 nella sua distilleria. Ma quindi è un caramba, che sorpresa. Fabio, che bello! Grazie. Fabio Medovato. Grazie. Allora, prego, faccia la domanda. Allora, a riguardo del premio internazionale Nonnino, nato come Risite d'Auro, chiedevo come mai è nato, quando è nato. Allora, una cosa tecnicissima questa. Grazie. Allora Fabio, il Risite d'Auro è nato nel lontano 1973 per salvare, è un atto d'amore di mio e di mio marito verso la nostra terra, verso il nostro Friuli, e anche, se vogliamo, verso il mio papà, che mi ha insegnato ad amare il Friuli. E avevo scoperto, andando alla ricerca di vinacce particolari, di vitigni autoctoni friulani, che alcuni, come lo schioppettino, il pignolo, il taccelenghe e la ribolla gialla per la zona del Coglio dove era più vocata, erano in via di estinzione in quanto non erano stati selezionati per l'albo comunitario per la sopravvivenza di questi vitigni. Abbiamo deciso, con l'aiuto fondamentale di Luigi Veronelli, di impegnarci e di proporre a quei vignaioli che avrebbero messo a dimora uno o più di queste varietà un premio, allora, le parlo del 73, di 1 milione di lire. Questo per riuscire a farli sopravvivere. All'inizio abbiamo avuto, non lo dico, tante battaglie, ci avevano denunciato dicendo che sarebbero andati ad estirpare tutte le barbatelle che i vari viticoltori avrebbero messo la dimora. Alla fine ce l'abbiamo fatta, sono stati autorizzati, e le dirò che con molto orgoglio il pignolo, lo schioppettino e la ribolla sono fra i vini più importanti importanti, più prestigiosi, più richiesti del Friuli. Da cosa nasce cosa? Poi dopo due anni il premio cominciava a starmi stretto, ho pensato di allargarlo alla stampa, ai giornalisti che avrebbero parlato di civiltà contadina. Dalla civiltà contadina, dai giornalisti, siamo passati, abbiamo fatto il salto di qualità con l'albero degli zoccoli di Ermanno Olmi, e poi da lì nell'83 il premio è diventato internazionale e via. Bene, questa è la storia. Allora, siccome a me piace farmi del male, adesso noi passiamo da questa visione un po' tecnologica e agreste alle tecnovisionarie. Noi sappiamo che la settimana scorsa c'è stata la premiazione del convegno Women and Technologies. Abbiamo mandato Stefano Totaro a vedere che cosa è successo e sentiamo l'intervista che ha fatto a Gianna Martinengo, che è la coordinatrice della conferenza. La tecnologia ha ancora un sesso, finora è stata prevalentemente maschile. Sicuramente, la conferenza Donne e Tecnologia ha questo obiettivo, dimostrare che la tecnologia è anche donna, liberarci dallo stereotipo che le donne non sono adatte alla tecnologia, affiancare all'ipotesi che le donne siano esclusivamente utilizzatrici della tecnologia, l'idea, la visione e la concretezza di numerose tecnovisionarie, e cioè di donne che nella loro professione, nelle imprese, nella pubblica amministrazione e soprattutto nei laboratori di ricerca, hanno dimostrato di inventare il futuro perché hanno prodotto, creato, ideato tecnologie. Ecco perché è così importante il ruolo delle donne oggi, perché è la grande forza delle competenze deboli. Però c'è ancora l'esigenza di organizzare un convegno su donne e tecnologia, perché? Perché le donne sono meno visibili degli uomini, nel senso che la storica e per fortuna opportunità che hanno le donne di un ruolo importante nell'ambito della famiglia fa sì che siano un po' escluse da palcoscenici che rendono visibili prevalentemente uomini. Ecco, noi siamo in collegamento con Maria Pia Ercolini, che terrà il 23 e 24 novembre presso la Sapienza un convegno sull'uso sessista della lingua. In particolare noi abbiamo voluto chiedere, poi chiederemo anche alla famiglia Nonnino, che è qui che nicchia, se internet in un certo senso è un mondo maschile. Buongiorno Maria Pia. Buongiorno. Beh, allora, internet in particolare non è esattamente una mia competenza. Io volevo parlare della situazione della lingua italiana, che è sicuramente un mondo maschile. Il linguaggio italiano, diciamo, la lingua italiana è inadeguata ad esprimere un genere, perché è basata su abitudini di stampo androcentrico. Quindi enfatizza i maschili e oscura i femminili, e che sia sessista viene dimostrato dal fatto che molti termini nella forma maschile e femminile, ad esempio, cambiano di valore, e quando passano alla forma femminile perdono di valore. Basti pensare al termine maestro e maestra. Fino a che parliamo di insegnanti elementari, ad esempio, esistono le due versioni, maestro e maestra. Quando poi si passa a più prestigiose, si usa soltanto il maschile, cioè grandi artisti, registi, musicisti, anche se donne vengono definiti maestro. Noi abbiamo qui una famiglia che in un certo senso guida un'azienda. Io mi rivolgo a Cristina, anche cioè, voi avete una percezione, insomma, voi che siete, viene a dire il sesso forte in azienda, che è orrendo, perché sto esattamente dimostrando che avete ragione la dottoressa Ercolini, ma esiste un'influenza della lingua sulla cultura? No, cioè, oddio, per dire la verità non ci ho mai riflettuto molto, nel senso che non, ecco, io non mi soffermo su queste cose, per me non hanno. Io capisco dal punto di vista dell'analisi della professoressa, possono essere. Effettivamente mi ha fatto riflettere il concetto di maestro. Noi abbiamo la sezione maestro del nostro tempo nel premio Nonino, e mai più, anche quando abbiamo insignito una donna, l'abbiamo definita maestra, quindi assolutamente accolto nel segno. però io credo sì che sia giusto più per un fatto di dibattito teoretico, perché nella pratica credo sia superato. No? Gianola Donino. Cristina, aveva ragione i miei genitori, professoressa. Noi siamo degli individui pensanti, quindi certo, come individui non siamo né maschi né femmine. Abbiamo un cervello che funziona, grande determinazione, grande voglia di riuscire. Per esempio, a me dà fastidio quando dicono ministra. Ministra proprio mi dà fastidio. Perché? Ministra, ma che cavolo ministra? È un ministro? Professore, no, va bene, va per me professore. Ecco, devo dire come maestro invece io preferisco per le scuole elementari, per me esiste la maestra. Il maestro proprio non mi piace. Ho perché capito. Non sento, non ha il quella... non riesce, per conto mio, le dirò che sono nipote, la mia nonna era maestra elementare, la mia mamma era anche lei una grandissima maestra elementare. Io sono la maestrina della Penna Rossa che non ha mai insegnato, però io nelle scuole elementari vedo perfetto il ruolo della maestra. E non mi, io ho notato anche ai miei tempi che c'erano dei maschietti e non mi andava bene, ecco. Ho capito. Allora, io chiedo a professoressa Ercolini, noi adesso dobbiamo chiudere. Io la rinvito anche la prossima volta, dove magari vediamo di approfondire un po' più il tema. Io ho una domanda, perché sto guardando rapidamente gli SMS, insomma, qualcuno si chiede anche se l'Italia sia un mercato interessante ancora o se ormai vada tutto all'estero. No, il primo mercato in assoluto è l'Italia, e dopo l'Italia il primo mercato estero in assoluto è il mercato tedesco. Devo dire che il mercato tedeschi, sì, noi siamo in aumento ogni anno dal 25-30% in Germania, però devo dire che, e lo dico con dispiacere, con piacere e dispiacere, che in Germania, io l'ho toccato con mano, l'ho vissuto, lo vivono anche le mie figlie e lo viviamo anche quando vengono i tedeschi in Italia, non chiedono una grappa, chiedono un anonino, e questo è il riconoscimento più bello. Ma lei va all'estero? Lei, cioè, chi è che manda, chi è che delle donne dell'anonnino? Tutte, perché noi siamo la classica azienda a gestione familiare, dove si fa tutto quello che serve, non esistono dirigenti, figure manageriali, perché a casa mia il manager viene definito manager dal papà. Ma così sì, tanto per dare un'idea, sì, per cui si sta molto coi piedini per terra. Ma quindi è un po' che il ragionamento sulle gerarchie fa un po' parte di una tradizione, cioè l'organizzazione è molto gerarchica, poi sia un po' figlia di un'organizzazione vecchia. Ma io credo di sì, perché almeno per quanto io non lo so, io ho l'esperienza di un'azienda piccola che per è familiare, cui, che chiaramente, ecco, per cui ovviamente ho una visione parziale della situazione. Indubbiamente è anche bello, però, perché ti permette di svolgere diverse mansioni, di avere un pochino sotto. C'è la qualcuno che mal sopporta i capi donna? No, ma la cosa più divertente, parlo per me, è il fatto che noi abbiamo in distilleria, perché distillare è un lavoro anche abbastanza faticoso, dei collaboratori stagionali, molti ex extracomunitari romeni, persone fantastiche, molto per bene, ormai ogni anno sono gli stessi che tornano, e la cosa, la più grande soddisfazione è che quando mi vedevano arrivare all'inizio donna a dare indicazioni su come operare, insomma mi guardavano un po' dall'alto in basso, mi chiedevano chi è sta qua. Invece? Poi vedendomi all'opera, vedendo che risolvevo i problemi, insomma ho acquisito grande credibilità e vi garantisco che per me è una grande, grandissima soddisfazione. Allora, grazie Cristina, grazie Gianola, noi abbiamo finito qui. Domani parleremo della realtà virtuale, ma quella che fa bene, non quella che fa male, attenzione, per cui i videogiochi che fanno bene, che fanno diventare intelligente, sarà una puntata interessantissima. Salutiamo la famiglia Nonnino, grazie di essere state con noi. In spirito con tutti i in nostri spirito, amici. In spirito. Soprattutto ai 25 anni di UE, l'Acquavite d'Uva, creata da Benito e me nel novembre del 1984. Comunque, brindiamo tutti assieme. Sì, no, una cosa, c'è solo acqua qui. Arrivederci. Nova Lab 24.